Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. In Italia, espellere degli integralisti islamici per attività di terrorismo è ormai inutile, dato che spesso i loro paesi d'origine li rimettono subito in libertà. E a volte le decisioni di espulsione sono contrastate dal TAR del Lazio o dalla Corte di Strasburgo. Due studenti marocchini dell'Università di Perugia, espulsi dall'Italia il 29 aprile per motivi di sicurezza dello Stato e prevenzione del terrorismo, 5 giorni dopo erano già liberi nel loro paese d'origine. Volevano attentare al Papa, ma per le autorità di Rabat sono innocui. Non solo. I due cacciati hanno annunciato un ricorso al TAR contro il decreto d'espulsione. In pratica, vogliono tornare in Italia. Il Ministero dell'Interno allontana 5-6 elementi all'anno considerandoli pericolosi. Il ministro Roberto Maroni ne ha espulsi 9 da quando è in carica, dal giugno 2008. Spesso però va a finire in maniera incredibile. Dopo l'espulsione, un imam favorevole alla Guerra Santa si è addirittura presentato alle elezioni nel suo paese e un altro predicatore ha continuato a propagandare la jihad in Italia via internet. In altri casi, il nostro paese ha subito la condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per l'espulsione dei presunti terroristi. A uno di questi è stato addirittura riconosciuto dalla sentenza un risarcimento pecuniario. Mohamed Lal e Ahmed Erramouni sono i due studenti marocchini dell'Università di Perugia colpiti il 29 aprile dagli ultimi 2 decreti di espulsione. Lal ha auspicato la morte del capo dello Stato della Città del Vaticano, affermando di essere pronto ad assassinarlo per garantirsi il paradiso, si legge nell'atto firmato dal ministro Maroni e pubblicato da Panorama. Il suo sodale, Erramouni, è un elemento attestato su posizioni filo-jihadiste, secondo il Viminale. In pratica, ipotizzavano di fare fuori il Papa, Benedetto XVI. Il 6 maggio, come ha rivelato il giornale arabo Al-Shark Al-Afshat, i due studenti sono stati rilasciati dalle autorità di Rabat con tante scuse. Come se l'antiterrorismo italiano avesse preso un abbaglio. I due marocchini sono stati assistiti legalmente da un'associazione per i diritti umani locale. Non solo. Gli studenti della Guerra Santa hanno annunciato che faranno ricorso al TAR del Lazio contro il decreto di espulsione e rischiano di vincerlo. Anche altri espulsi, una volta giunti nel paese d'origine, l'hanno fatta franca. Il caso più clamoroso è quello del cosiddetto imam di Carmagnola. L'allora ministro dell'interno, Giuseppe Pisanu, lo rimandò in Senegal nel 2003. Abdul Kadir Falmamour aveva più volte propagandato l'estremismo dopo l'11 settembre 2001. A casa sua non gli è accaduto nulla e ha continuato la guerra santa virtuale indirizzata all'Italia attraverso internet. Lo scorso anno in Italia è stata aperta un'inchiesta sui suoi blog, con documenti che sprizzano odio nei confronti dell'Occidente e giustificano gli attacchi suicidi e rilanciano i messaggi di Al-Qaeda. Un altro imam, Burici Bukta, era stato espulso dall'Italia nel 2005, ma non ha mai avuto alcun problema in Marocco. Anzi, 2 anni dopo si è presentato alle elezioni con il partito Al-Badil Al-Adari, vicino alle posizioni dell'accademico dell'Islam Tariq Ramadan. Peccato che l'antiterrorismo italiano e l'FBI accusassero Bukta di aver raccolto fondi per la guerriglia di Hamas e che nella sua moschea di Torino si fossero reclutati volontari per il fronte ceceno. I terroristi, che pure combattono lo Stato di diritto e la democrazia nelle loro concezioni occidentali, sono abilissimi a utilizzare leggi e convenzioni internazionali per opporsi alle espulsioni. Nel 2008 ha fatto discutere il caso di Nassim Saadi, uno dei primi tunisini arrestati in Italia dopo l'11 settembre. La Tunisia lo riconosce colpevole di terrorismo e gli infligge una pena di 20 anni in contumacia. Il ministro dell'interno italiano dispone l'espulsione, ma l'avvocato di Saadi fa ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Se il tunisino torna a casa, rischia maltrattamenti e torture, veri o presunti. L'espulsione così viene sospesa. e Saadi si professa perseguitato. La sorte di un altro tunisino, Essid Sami Benkemaïs, ha provocato l'intervento della Corte europea. Secondo il nostro Ministero dell'Interno, era il responsabile delle filiere di reclutamento per i campi di addestramento filo-qaedisti operanti in Afghanistan. Il terrorista, che viveva a Gallarate, in provincia di Varese, è stato condannato nel nostro paese e poi espulso in Tunisia il 3 giugno 2008. Benkemaïs è sulla lista nera dell'ONU e sconta una pena di 10 anni nel suo paese. Sebbene il governo italiano abbia ricevuto assicurazioni diplomatiche dai tunisini che non sarebbe stato torturato, la Corte europea ha condannato il nostro paese. Molti di questi terroristi sono stati adottati dall'associazione umanitaria Amnesty International, che in ogni rapporto annuale critica l'Italia per le espulsioni. Il timore è che una volta rispediti in patria, gli espulsi vengano torturati o maltrattati. Uno dei casi più paradossali è quello di Murad Trebelsi, ex imam di Cremona di origini tunisine. È un imam radicale incaricato del reclutamento dei combattenti da inviare tra le fila dell'organizzazione terroristica curdo-irachena Ansar al-Islam, sostiene il Viminale. E in Italia è stato regolarmente processato e condannato a 10 anni di galera, ridotti in appello a 7. In Tunisia, però, pendeva sul suo capo una condanna ad altri 10 anni di carcere in contumacia per terrorismo. La Corte di Strasburgo, ancora una volta, aveva chiesto all'Italia di non rimandarlo a casa, ma Trabelsi, in base ai trattati con la Tunisia, è stato espulso il 13 dicembre 2008. Perciò lo scorso aprile i giudici europei hanno condannato l'Italia a un indennizzo di 21.000 euro, 15.000 euro per i danni morali e 6.000 per le spese processuali dell'imam terrorista. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Fausto Biloslavo Espulsi ma liberi di nuocere, da Panorama numero 2298 del 3 giugno. Da ogni parte si contestano Italia e la cultura previsti dalla manovra. Ma come si fa a definire libera una cultura che è controllata e sovvenzionata? Si domanda Pierluigi Battista dalle pagine del Corriere della Sera. Se la cultura muore per i tagli dei fondi statali, vuol dire che la cultura in Italia non esiste senza la generosità dello Stato unico mecenate. Dipendiamo tutti dallo Stato, noi che lavoriamo nella cultura, nell'informazione, nella comunicazione. Senza erogazioni dello Stato finisce la cultura. Senza elargizioni dello Stato finiscono i piccoli giornali. Senza le sovvenzioni dello Stato boccheggia l'arte, il cinema, il teatro, la lirica, la ricerca. Questa è la lezione amarissima che la mannaia finanziaria produce come contraccolpo. Ma se la cultura è controllata, sovvenzionata, accudita, assistita dallo Stato, che cultura libera è? Se istituti, fondazioni e accademia dicono che senza i soldi dello Stato devono chiudere, dov'è la misura della loro libertà? E se i giornali sopravvivono grazie ai contributi dello Stato, come fanno a provare la loro indipendenza? La vecchia massima di Friedrich von Hayek conserva intatto il suo valore. Chi controlla tutti i mezzi di produzione è irresistibilmente indotto a controllarne i fini. Il mecenatismo non è mai gratuito. Non è un dono, è un'arma di ricatto. Se il mecenate chiude i rubinetti, la cultura rischia di morire assetata. Siamo sicuri che lo statalismo culturale sia poi così più attraente della vituperata logica del mercato? Protestano i cineasti per il dimagrimento del fondo pubblico destinato al cinema. Così, dicono, il cinema muore. Protestano gli addetti agli enti lirici, i corpi di ballo, i teatri stabili, i tecnici degli spettacoli quando lo Stato stringe i cordoni della borsa. Così, dicono, viene sepolta la cultura. Protestano i piccoli giornali se lo Stato diminuisce gli stanziamenti che li tengono in vita. Così, dicono, muore la libertà di stampa. Tutto vero, purtroppo. Ma è anche giusto? È giusto che i 232 istituti culturali che oggi rumoreggiano per le forbici di Stato debbano vantare la loro totale dipendenza dallo Stato? In Italia non c'è un film, un concerto, uno spettacolo teatrale, un libro, un giornale, una mostra che possa sopravvivere grazie all'autofinanziamento, se non totale, almeno determinante. È allarmante. Dicono che però l'Italia spende per la cultura meno di altri paesi. Vero, ma battere sul tasto dello Stato spilorcio non rischia di diffondere la sensazione che la vitalità di una cultura dipenda esclusivamente dalla generosità dello Stato erogatore a fondo perduto? Le buone idee, magari, dovrebbero essere gratis. Se ce le abbiamo, bene. Se non le abbiamo, non possiamo dare la colpa allo Stato assistenziale, che non assiste più. È amaro, ma è così. Ne va del lavoro, del reddito, del benessere di migliaia e migliaia di ottime persone, ma è così. Ma dove c'è totale discrezionalità dello Stato sulle sorti della cultura, lì si annida anche il tarlo dei favoritismi, delle regalie, degli sprechi. Le idee sono gratis. L'assistenzialismo non lo è mai e in cambio non chiede mai le cose migliori. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Pierluigi Battista Se la cultura esiste solo grazie allo Stato, dal Corriere della Sera del 31 maggio. Letture di Radio 24. Il sanguinoso blitz di Israele contro le navi degli attivisti ha suscitato sdegno in tutto il mondo. Ma i turchi che volevano entrare a Gaza erano tutt'altro che pacifisti, scrive Giulio Meotti sul Foglio. Cantavano musiche dell'intifada palestinese e inneggiavano al martirio i militanti turchi in partenza dall'isola di Cipro alla volta delle spiagge di Gaza. Lo dimostra un video diffuso dal sito di informazione Memri, dopo il grave incidente con le forze di difesa israeliane, costato la vita a numerosi attivisti per la pace a bordo delle navi. All'arrivo delle imbarcazioni di fronte a Gaza, i militanti turchi hanno inneggiato al jihad. «Kaibar, Kaibar, Ya Yahud», gridavano dalle navi. In arabo significa «ebrei», ricordate Kaibar. L'esercito di Maometto è tornato. Il riferimento è alla città saudita dove l'armata del profeta annientò una tribù ebraica avversa. Su quelle navi c'erano due tipi di pacifisti: i militanti occidentali della critica militante a Israele, che facevano capo al pacifico Free Gaza Movement, dell'ex deputato inglese George Galloway e della cognata di Tony Blair, Laureen Boat. È un'iniziativa sostenuta anche dal premio Nobel per la pace l'irlandese Myrid McGuire, dal linguista americano Noam Chomsky, oltre che da molte altre personalità internazionali. Ma soprattutto la flottiglia era guidata e finanziata dall'IHH. Si tratta di uno dei più potenti, estesi e influenti movimenti islamisti presenti in Turchia e che operano nell'ambito delle organizzazioni non governative umanitarie. Il vice ministro degli esteri israeliano, Danny Aiellon, lunedì mattina ha denunciato i legami con Al-Qaeda degli organizzatori della Flotta della Pace. Il loro scopo esplicito era quello di portare illegalmente aiuto e conforto ad Hamas, un'organizzazione terroristica fuori legge che persegue la distruzione di Israele e che è nella lista nera dell'Unione Europea. In turco si dice Insan Aklari ve Ariyetleri Vakfi. IHH è questo il nome dell'organizzazione radicale islamica fondata nel 1992. Un dossier dell'Intelligence and Terrorism Information Center israeliano ne ha delineato l'ideologia e le attività prima che partissero da Cipro alla volta del territorio sotto il controllo di Hamas. Come il movimento palestinese, l'IHH è parte integrante del network dei Fratelli Musulmani, la più vasta e influente organizzazione islamista del mondo, che non riconosce legittimità all'esistenza di Israele. Dopo il golpe a Gaza che ha estromesso i rivali di Fatah, l'IHH ha appoggiato Hamas, invitandone i suoi leader a tenere un fitto tour di conferenze in Turchia. Israele ha risposto mettendo al bando l'IHH 2 anni fa, dopo aver dimostrato che i suoi aiuti umanitari finivano anche in armi e in materiale bellico, poi usato nella guerra del gennaio 2009. Il leader e ispiratore del gruppo, Bulent Yildirim, è persino accusato di legami con Al-Qaeda e di aver inviato veterani jihadisti nei campi di battaglia, dall'Afghanistan all'Iraq. L'organizzazione turca appare nella lista nera delle formazioni terroristiche stilata dalla CIA. L'IHH agisce anche come parte della nota Benevolence International Foundation, un ente di beneficenza islamico con sede in Illinois e che negli anni è stato al centro di numerose inchieste antiterrorismo che hanno portato all'arresto dei suoi leader e membri. L'ufficio dell'allora ministro della giustizia americano, John Ashcroft, stabilì che membri di questa ONG stavano cercando di ottenere armi chimiche per conto di Osama Bin Laden. Tutt'oggi l'IHH figura tra i membri della stessa Union of Good, la multinazionale della carità islamica composta da 50 organizzazioni e fondata nel 2000 dopo l'inizio della seconda intifada per aiutare l'infrastruttura sociale di Hamas, scuole, strade, trasporti pubblici, aziende agricole e ospedali, ma non solo ovviamente. Nel 2003 gli Stati Uniti hanno messo fuori legge il gruppo. Perfino la Turchia ha aperto un'inchiesta sull'organizzazione IHH, che lunedì scorso ha cercato di sfondare il blocco navale di Gaza. Nel 1997 la magistratura di Ankara scoprì che il movimento aveva acquisito una grossa partita di armi semiautomatiche. Nel loro quartier generale a Istanbul, la polizia turca rinvenne armi da fuoco, esplosivi e una bandiera del Jihad. Numerosi attivisti dell'IHH avevano già preso la strada dell'Afghanistan, della Bosnia e della Cecenia, dove si erano uniti a gruppi terroristici. Durante lo spaventoso terremoto che devastò la Turchia nel 1999, il governo turco bandì l'IHH dall'aiutare la popolazione civile colpita, in quanto organizzazione fondamentalista, che non poteva fornire garanzie sulla trasparenza dei propri conti bancari e sui movimenti di denaro. Oggi c'è un altro governo in Turchia, molto più vicino alle idee dell'IHH. Un rapporto del Danish Institute for International Studies ha rivelato che il movimento turco IHH ha anche finanziato la guerriglia sunnita in Iraq attraverso donazioni e uomini e che l'attuale leader del gruppo, Bülent Yıldırım, è stato uno dei promotori in Turchia del sostegno alla resistenza anti-americana a Fallujah, nelle piazze e nelle moschee. Il noto magistrato francese che si occupa di network terroristici, Jean-Louis Bruguière, ha testimoniato in una corte federale degli Stati Uniti che l'IHH ha avuto un ruolo centrale nel tentativo di colpire con un grande attentato dinamitardo l'aeroporto internazionale di Los Angeles. L'IHH è una ONG, ma si tratta di una facciata per falsificare documenti, infiltrare terroristi e trafficare in armi, ha detto Bruguière. Il più potente giudice dell'antiterrorismo europeo degli ultimi anni è già coordinatore per la Francia dell'insieme dei dossier sulla lotta al terrorismo jihadista. L'IHH vanta oggi legami molto stretti con il regime di Teheran, da cui riceve fondi e assistenza. A dicembre, quando l'organizzazione non governativa turca ha avviato la campagna su Gaza, il governo iraniano elogiò e sostenne il più grande convoglio umanitario della storia. Quanto all'ideologia antisemita di cui questa ONG turca si macchia, qui è stata forte l'influenza dell'ex premier turco Necmettin Erbakan. Il padre spirituale dell'alveo dei movimenti caritatevoli turchi, Erbakan è celebre per aver detto che il batterio ebraico deve essere diagnosticato e bisogna trovare una cura. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giulio Meotti, Ecco chi sono i pacifisti turchi che volevano entrare a Gaza, dal Foglio dell'1 giugno. Una donna laziale in causa da 40 anni per una questione legata ad un'eredità se n'è andata senza poter conoscere l'esito della sentenza, nonostante lo Stato avesse ricevuto una condanna per i ritardi. È uno dei tanti paradossi della mala giustizia italiana. Giustizia lenta, si dice, quella italiana. Così lenta che si muore anticipando la sentenza definitiva. Non è la prima volta e non sarà l'ultima, ma il caso della vecchietta di Tivoli è veramente al limite della decenza. La signora G.I. avrebbe compiuto tra poche settimane i 95 anni, traguardo ragguardevole per tutti, tranne che per le scartoffie dei giudici civili. Abitava a San Gregorio da Sassola, accanto a Tivoli, collina romana. Si è spenta dopo una lunga e, dice il termine medico, invalidante malattia. È morta senza aver avuto la possibilità di conoscere l'esito di una pluridecennale causa civile, intrapresa contro alcuni parenti per una ragione tanto banale quanto consueta. Un'eredità materna contesa da troppa gente. La stranezza giuridica, in questo caso, è racchiusa nei tempi. La signora avviò la causa quando era poco più che cinquantenne, quindi all'epoca dei Beatles e di Mario Capanna, prima di Italia-Germania 4-3, quando Rivera e Mazzola erano baldi giovanotti che si contendevano la maglia numero 10 della nazionale e il Papa polacco era apprendista a Cracovia. Dopo quattro decenni spesi inutilmente tra carte bollate, udienze rinviate, giudici sostituiti, avvocati cambiati o defunti, codici e leggi che si sono susseguiti contraddicendosi l'uno con l'altro, L'anziana, stanca di attendere, aveva deciso di far causa al responsabile della situazione, lo Stato, e aveva invocato l'applicazione dell'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, quello che punisce pecuniariamente uno Stato per l'eccessiva durata del processo. Esemplare e veloce, per una volta, la decisione della Corte d'Appello di Perugia, accogliendo il ricorso della signora, presentato dagli avvocati Canzona e Orecchioni, che ora rendono noto il fatto, aveva condannato il Ministero della Giustizia a pagare 8.000 euro più interessi legali. Era il 10 aprile 2006. Il Ministero avrebbe dovuto onorare entro poche settimane il debito nei confronti dell'anziana, felice di assaporare l'imminente vittoria. Invece così non è stato. A poco sono serviti i numerosi atti di precetto contro l'amministrazione pubblica, che si è vista pignorare alcune fotocopiatrici. Niente soldi, niente vittoria, sia pure platonica, e infine il decesso. Adesso saranno gli eredi a chiedere giustizia, se ne avranno ancora voglia. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Paolo Poletti, Causa di 40 anni, muore senza giustizia, dalla Stampa del 31 maggio.